Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. English Bit di Giulia Crivelli. To sue. Brussels sued UK over plans to breach Brexit agreement terms. Le negoziazioni sulla Brexit sono alle fasi finali e Financial Times riassume così lo stato delle trattative. Bruxelles fa causa al Regno Unito dopo il piano che prevede la violazione sugli accordi sulla Brexit. La prima parola che ci interessa è sued, voce del verbo to sue, regolare, to sue, sued, sued, che significa fare causa e si può usare sia con la preposizione over, come nel titolo di Financial Times, sia con for. Her agent sued her for breach of contract. Il suo agente le fece causa per non aver rispettato i termini del contratto. The singer sued the theater for $10 million. Il cantante fece causa al teatro chiedendo 10 milioni di danni, potremmo tradurre in italiano. They threatened to sue them if the work was not completed on time. Minacciarono di far loro causa se il lavoro non fosse stato finito per tempo. Si può usare anche nel gergo matrimonialista. After 40 years of love and respect, she sued for divorce. Dopo 40 anni d'amore e rispetto, chiese il divorzio. Tornando al titolo del quotidiano britannico, prendiamo l'altro verbo, to breach, anch'esso regolare, to breach, breached, breached, che significa rompere e può essere usato in senso figurato e non. The government is accused of breaching the terms of the treaty, situazione simile a quella del governo di Boris Johnson, che è accusato di non aver rispettato, di averlo rotto letteralmente i termini del trattato. The dam had been considered dangerous for a long time and last year it breached. La diga era stata considerata pericolosa per molto tempo, l'anno scorso si ruppe. Notiamo l'uso del gerundio del verbo dopo una preposizione, in questo caso of. He was accused of stealing a fur coat from the luxury shop he worked for. Fu accusato di aver rubato un cappotto di pelliccia dal negozio di lusso in cui lavorava. I am really looking forward to spending some time with you. Non vedo l'ora di poter passare del tempo con te. Oltre al gerundio, dopo la preposizione to, in questo caso notiamo l'espressione to be looking forward to, che significa appunto non vedere l'ora di qualcosa o di fare qualcosa. Breach è anche sostantivo, a breach of contract, copyright, warranty, la rottura di un contratto, la violazione di un copyright, il mancato rispetto di una garanzia. In senso ancora più figurato, a breach of confidence, trust, security, la fine della fiducia o una falla nella sicurezza, anche informatica. In gergo diplomatico, a breach in Franco-German relations, una rottura delle relazioni tra Francia e Germania. They escaped through a breach in the fence nobody had noticed. Scapparono attraverso un buco della recinzione che nessuno aveva notato. Infine, sempre dal titolo di Financial Times, prendiamo il sostantivo agreement, accordo. To agree, regolare, è il verbo essere o trovare un accordo. Il suffisso meant lo trasforma in nome, come spesso accade in inglese. To confine, confinare, confinement, il confinamento, to manage, management, to employ, employment, solo per fare qualche esempio. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di aruba.it.